unheilige Dreifaltigkeit. Wozu der Gekreuzigte dort an der Wand? Es bedarf einer Deutung. Gib sie dir selber. Ich sehe einen Menschen am Ende seines Leidens. Ich vermute Menschen, die das getan. Ich vermute einen, der das erlaubt. Somit hast du die Deutung. Eine dreifache Deutung des einen Bildes. Leidtragende Menschheit, leidspendende Menschheit, ein Gott, dem das Recht ist. Trinità non santa. Perché quel crocifisso al muro? C'è bisogno di un'interpretazione. Datela tu stesso. Vedo un uomo al termine delle sue sofferenze. Suppongo uomini che hanno fatto questo. Suppongo uno che l'ha permesso. Quindi hai l'interpretazione. Una triplice interpretazione di una sola immagine. Un'umanità che soffre, un'umanità che infligge sofferenze, un Dio che gli sta bene così.